Continua il nostro speciale Io leggo perché, dedicato alla promozione della lettura. Adesso andiamo avanti con le testimonianze. Le prossime che ascolterete sono state raccolte presso lo studio Bruchi Art Design and Experiment di Genova. Buon ascolto. Sono Bruna, leggo perché voglio dilatare il tempo. Il problema era che 900, a dire il vero, nei porti non suonava mai, non voleva suonare. Erano già un po' terra, i porti, e non gli andava. Lui suonava dove voleva lui, e dove voleva lui era in mezzo al mare, quando la terra è solo più luci lontane, o un ricordo, o una speranza. Era fatto così. Alessandro Baricco, 900. Ciao, io sono Chiara e leggo perché è la cosa che più mi piace fare, perché la letteratura mi porta da un'altra parte, e poi mi fa anche stare in una parte, e allora io, per rimanere nelle sensazioni, ho bisogno della parola e devo leggere. E anche perché è l'avventura più rocambolesca che uno possa fare, un po' come la vita, non come proprio romanzi picareschi, però come tutto quello che sentiamo più vicino al cuore. E oggi vi leggo due righe, proprio due, di un romanzo della Oates o Otis, che dir si voglia, che si chiama La madre che mi manca, che è uno dei miei romanzi preferiti. Il paragrafo si chiama A pezzi. In quel periodo Nicky Eaton era a pezzi, diceva la gente. A me sembrò il periodo in cui i pezzi li rimisi insieme e diventai più forte. Sono Roberta e leggo perché quando leggo potrei essere ovunque senza rendermi conto di dove sono. Vi leggerò un pezzettino degli ingredienti segreti dell'amore di Nicolas Barrow. Quando la gente mi chiede da dove prendo le mie idee, rispondo che non lo so. È una domanda stupida. Se sapessi da dove prendo le mie idee, non sarebbero più le mie idee, sarebbero idee di qualcun altro. Io le avrei rubate. Le idee non si prendono da nessuna parte, all'improvviso te le ritrovi in testa. Forse vengono da Dio, dalle forze oscure o da qualcos'altro ancora. Ciao, sono Sabrina, leggo perché è un vizio a cui non voglio rinunciare. Vi leggerò un pezzo tratto dai Lacci di Starnone. Allora, soffoco i singhiozzi, mi asciugo le lacrime, faccio la voce flebile. Mi lagno perché nessuno mi vuole bene, nemmeno mamma, nemmeno papà. Non mi hanno mai amata, dico, e me la prendo con la gratitudine che i figli dovrebbero ai genitori per la vita che hanno ricevuto. Gratitudine? Rido, esclamo. Sono i nostri genitori che ci devono un risarcimento per i danni che ci hanno causato al cervello, ai sentimenti. O no? E mi soffio il naso, borbotto, battendo la mano sul divano, chiamo il gatto. Lars, vieni qua. Il gatto mi sorprende, d'un balzo si sistema accanto a me. Io sono Claudia e leggo perché vivo. Ho preso un pezzo dal libro della Repubblica delle Farfalle di Matteo Corradini. Il signor Otis lo sa, così ci presta solo le storie che ci danno coraggio, che ci aiutano a sopravvivere, e non ci consiglia mai quelle tristi. Cosa ce ne faremmo? La tristezza è gratis, è lei che ci viene a trovare. E non c'è nessun bisogno di andarla a cercare in biblioteca, poi. Ciao a tutti, io sono Elisa, sono un messaggero perché ho scelto di divulgare il più possibile il libro cartaceo. Ho scelto un pezzo di Cristiano Cavina, I frutti dimenticati. E te dove eri? Gli chiedo. È l'unica cosa che riesce a uscirmi di bocca. Si guarda le scarpe, i piccioni ci girano attorno. Quando alle medie ci consegnavano le pagelle, era richiesta la firma di uno dei due genitori. Mamma lavorava e così la sua firma doveva sempre falsificarla il babbo o la mamma di qualche mio amico. Dov'eri te? È l'unica cosa che mi esce. Un pomeriggio, per dimostrare a tutti i miei poteri speciali, mi lanciai dallo scivolo dell'asilo. Il volo risultò perfetto, una prova schiacciante, ma l'atterraggio fu un disastro. Mi spaccai il dito e trattenni le lacrime. Dov'eri te? Riesco solo a dire. Sollevo la mano. Guarda per un istante il mio anulare sinistro. Vedi? Vedi che non ci passa nessun anello della misura giusta? E gli unici che ci passano prima o poi scivolano via, gli vorrei dire. Dov'eri te? Dov'eri te? Dico invece. Sono Livia. Leggo perché condivido la gioia. Bella accento genovese. Thank you. siamo giunti quasi alla fine di questo speciale Io leggo per te, per festeggiare la giornata mondiale del libro. L'ultimo intervento che ascolterete è quello realizzato presso Officina Letteraria, il laboratorio di scrittura creativa di Genova. Questa giornata però non si conclude qui. In queste stesse ore, in varie piazze italiane, si stanno svolgendo vari eventi. I messaggeri della lettura hanno coinvolto ogni fascia di età. Questa sera su Rai 3 alle ore 21.05 potrete assistere alla diretta da Milano condotta da Pierfrancesco Favino. Vi lascio all'ascolto delle testimonianze raccolte ad Officina Letteraria e vi ringrazio per l'ascolto. Io sono Stefano e leggo perché leggere mi permette di socchiudere la porta di un mondo fantastico, dove se anche sono cieco riesco a vedere tutto quanto. E leggere, secondo me, è dignità. Signorina Jean-Louise, mi guardai attorno. Erano tutti in piedi. Tutto attorno a noi e nella balconata della parete opposta, i negri si erano alzati in piedi. La voce del reverendo Sykes suonò lontana come quella del giudice Taylor. «Si alzi, signorina Jean-Louise, sta passando suo padre», tratto da «Il buio oltre la siepe» di Harper Lee. Io sono Emilia e leggo perché mi piace andare in profondità. E più ci pensava, più la strana idea che le era venuta con un'ispirazione tanto sorprendente e folgorante la eccitava, fino a che non ebbe più alcun dubbio che ciò che stava per fare era la cosa giusta, una forma di protesta consona, e provò piacere a rotolare quella parola sulla lingua e a morderla. Protesta, la mia protesta. Da A un cerbiatto somiglia al mio amore di Davide Grossman. Io leggo perché la vita non mi basta. Esiste una musica del corpo che esce dalle labbra senza scomodare l'intenzione. È la più strepitosa manifestazione di indipendenza dell'orchestra di organi che abitiamo. Dalla musica provata di Harry De Luca. Io leggo perché mi piace viaggiare, mi chiamo Dario. Arriviamo dalla grande città. Abbiamo viaggiato tutta la notte. Nostra madre ha gli occhi arrossati. Porta una grossa scatola di cartone. E noi due, una piccola valigia a testa con i nostri vestiti, più il grosso dizionario di nostro padre, che ci passiamo quando abbiamo le braccia stanche. Camminiamo a lungo. La casa di nonna è lontana dalla stazione, all'altro capo della piccola città. Qui non ci sono tram, né autobus, né macchine. Circolano solo alcuni camion militari. I passanti sono pochi, la città è silenziosa. Si può udire il rumore dei nostri passi. Camminiamo senza parlare. Nostra madre tra noi due. Questo è l'incipit della trilogia della città di Kappa di Agota Christoph. Io sono Federica e leggo perché cerco le risposte alle domande difficili. Dio mio, un minuto intero di beatitudine. È forse poco per colmare tutta la vita di un uomo? Dalle notti bianche di Fyodor Dostoevskij. Sono Paolo e leggo perché chi legge non si sente mai solo. Non sono miscredente, non far caso a quello che dicono. Ho sempre pensato che esiste un Dio. È solo che non mi è mai piaciuto. Tratto da Sutri di Cormac McCarthy. Io sono Annalisa e leggo perché qualcuno ha scritto quella storia per regalarmi un po' di sé. Guardo a lungo questi pochi resti del Lager 1B. Tra poche stagioni spariranno anch'essi. Che cosa rimarrà? Forse queste mie povere parole, tratto da Aspettando l'alba di Mario Rigoni Sterna. Io sono Antonio e leggo perché ne ho sempre bisogno. Il futuro è sempre qualcosa di integro e uniforme. Nel futuro saremo tutti alti e felici, disse lei. Ecco perché il futuro fallisce. Fallisce sempre. Non potrà mai essere il luogo crudele e felice in cui vogliamo trasformarlo. Cosmopolis di Don DeLillo. Sono Emanuela. Leggo per entrare in un'altra dimensione. Tutte le piogge che cadono si ripetono, sul suolo, sull'albero, sul mare, sulla mia mano, il mio viso, i miei occhi, e le gocce si schiacciano sul vetro. Rinnovamento dei miei giorni, simili gli uni agli altri, differenti gli uni agli altri. Tratto da Concerto in re minore, numero 1 di Bach. Sono Mariangela e leggo perché trovo altre vite in cui riconoscere parti di me. La mente ripercorreva una vita che le appariva di una lunghezza sconcertante. Provava una tranquilla sorpresa al pensiero che così tante esistenze potessero trovare spazio in una sola. Non riusciva a dare loro un nome, si limitava a sentirle. Dai ragazzi Bourges di Elisabeth Strutt. Sono Stefania e io leggo perché riesco a vivere in tutti i tempi. Si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi tengano gli altri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli occhi che al posto del morto potremmo essere noi. Non ci sarebbe differenza e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Alla casa in collina di Cesare Pavese. Sono Livia. Io leggo perché guardare con gli occhi non mi basta. Voglio vedere con anima, corpo e cuore. Hai mai viaggiato tutta una notte, attraversando un temporale forte, ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole, ho illuminato fino alla mattina da una candela o da un...